terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Pochi ne parlavano, nella fortezza, come di cosa senza importanza che non li poteva riguardare. Troppo vicina era la delusione per la guerra mancata, benché nessuno mai avesse avuto il coraggio di confessarlo. E troppo fresca la mortificazione di veder partire i compagni, di restare pochi e dimenticati a custodire le inutili mura. La riduzione del presidio aveva dimostrato ben chiaramente che lo Stato Maggiore non dava più importanza alla fortezza Bastiani. Le illusioni, una volta così facili e desiderate, ora si respingevano con rabbia. Simeoni, per non essere beffeggiato, preferiva tacere. Nelle notti successive, del resto, non si vide più il lume misterioso, né, di giorno, si riuscì più a distinguere alcun movimento all'estremità della pianura. Il maggiore Matti, salito per curiosità sul ciglio della bastionata, si fece dare il cannocchiale da Simeoni e invano perlustrò il deserto. «Tenga pure il suo cannocchiale, tenente», fece poi a Simeoni in tono indifferente. «Forse sarebbe bene che, invece di consumarsi gli occhi per niente, lei badasse un po' di più ai suoi uomini. Ho visto una sentinella senza bandoliera. Vada a vedere. Deve essere quella là, in fondo». Col Matti c'era il tenente Maderna, che poi raccontò la storia alla mensa, fra grandi risate. Oramai tutti cercavano unicamente di far passare i giorni il più comodamente possibile, e la faccenda del nord fu dimenticata. Soltanto con Drogo Simeoni continuò a discutere il mistero. Per 4 giorni realmente non si erano più visti né lumi né macchie in movimento, ma al 5° erano di nuovo comparsi. Le nebbie settentrionali, credeva di poter spiegare Simeoni, si ampliavano o si ritiravano secondo le stagioni, il vento e la temperatura. In quei 4 giorni esse erano scese in direzione sud, avvolgendo il presunto cantiere. Non solo ricomparve il lume, ma dopo circa una settimana Simeoni pretese che esso si fosse spostato avanzando in direzione della fortezza. Questa volta Drogo si oppose. Com'era possibile, nel buio della notte, senza alcun punto di riferimento, constatare un simile movimento, anche se fosse realmente avvenuto? «Ecco», diceva Simeoni ostinato, «tu dunque ammetti che se il lume si fosse spostato non si potrebbe dimostrarlo con sicurezza. Ho dunque tanta ragione io a dire che si è mosso quanto tu a dire che è rimasto fermo. Del resto, vedrai, voglio osservare tutti i giorni quei puntini che si muovono. Vedrai che a poco vengono avanti». Il giorno dopo si misero a guardare insieme, alternandosi nell'uso del cannocchiale. In realtà non si vedeva altro che 3 o 4 minime macchioline, le quali si spostavano con grande lentezza. Era già difficile rendersi conto di questi movimenti. Bisognava prendere 2 o 3 punti di riferimento, l'ombra di un macigno, il ciglione di una collinetta, e fissarne le proporzionali distanze. Dopo parecchi minuti si vedeva che questa proporzione era cambiata, segno che il puntino aveva mutato posizione. Era cosa straordinaria che Simeoni avesse potuto accorgersene la prima volta. Né si poteva escludere che il fenomeno si andasse ripetendo da anni o da secoli. Poteva esserci laggiù un villaggio o un pozzo presso il quale le carovane si attendassero, e fino allora nessuno aveva adoperato alla fortezza un cannocchiale forte come quello di Simeoni. Lo spostamento delle macchioline avveniva quasi sempre sulla medesima linea, in su e in giù. Simeoni pensava che fossero carri per il trasporto di sassi o ghiaia. Gli uomini, lo diceva, sarebbero risultati troppo piccoli a quella distanza per poter essere visti. Di solito si distinguevano soltanto 3 o 4 puntini in contemporaneo movimento. Ammesso che fossero carri, ragionava Simeoni, su 3 che si muovevano dovevano essercene almeno altri 6 fermi per il carico e lo scarico, e questi 6 non potevano essere identificati confondendosi con le 1000 altre macchie immobili del paesaggio. In quel solo tratto, dunque, veniva manovrata una decina di veicoli, probabilmente a 4 cavalli ciascuno, come per uso per i trasporti pesanti. Gli uomini, in proporzione, dovevano essere centinaia. Queste osservazioni, fatte da principio quasi per scommessa e per gioco, diventarono l'unico elemento interessante della vita di Drogo. Sebbene Simeoni, per la mancanza di ogni allegria e la pedante conversazione, non gli fosse specialmente simpatico, Giovanni, nelle ore libere, stava quasi sempre con lui. Eppure alla sera, nelle sale degli ufficiali, i due stavano alzati fino a tarda ora a discutere. Simeoni aveva già fatto un preventivo. Ammesso pure che i lavori procedessero a rilento e che la distanza fosse anche maggiore di quella comunemente ammessa, sarebbero bastati 6 mesi, diceva, perché la strada si avvicinasse a tiro di cannone dalla fortezza. Con ogni probabilità, lui pensava, i nemici si sarebbero fermati a ridosso di un gradone che attraversava in longitudine il deserto. Questo gradone, di solito, si confondeva col resto della pianura per l'identità di colore, ma talora le ombre della sera o banchi di nebbia ne rivelavano la presenza. Esso divallava verso il nord, non si sapeva se ripido né quanto profondo. Ignoto era quindi il tratto di deserto che esso toglieva alla vista di chi guardava dalla ridotta nuova, dai muri del forte. Per via delle montagne davanti, il gradone non si scorgeva. Dal ciglio superiore di questo avvallamento, fino ai piedi delle montagne, là dove si alzava il cono roccioso della ridotta nuova, il deserto si stendeva uniforme e piatto, interrotto soltanto da qualche fessura, da mucchi di sfasciume, da brevi zone di canneto. Arrivati con la strada sotto il gradone, prevedeva Simeoni, i nemici avrebbero potuto senza difficoltà compiere il restante tratto quasi di un balzo, approfittando di una notte nuvolosa. Il terreno era abbastanza liscio e compatto per permettere anche alle artiglierie di procedere agevolmente. I 6 mesi previsti in linea di massima, aggiungeva il tenente, potevano però diventare 7, 8 e anche molti di più, secondo le circostanze. E qui Simeoni elencava le possibili cause di ritardo: un errore nel calcolo della complessiva distanza da superare, l'esistenza di altri valloni intermedi, invisibili dalla ridotta nuova, dove i lavori sarebbero riusciti più lunghi e difficili, un progressivo rallentamento della costruzione, man mano che gli stranieri si allontanavano dalla fonte dei rifornimenti. Complicazioni di carattere politico che consigliassero di sospendere l'opera per un certo periodo. La neve, che avrebbe potuto paralizzare anche totalmente i lavori per 2 o più mesi. Le piogge, che trasformassero la pianura in pantano. Questi, gli ostacoli principali, Simeoni ci teneva a prospettarli meticolosamente, uno ad uno, per non sembrare un fissato. E se la strada non avesse avuto alcun intento aggressivo? E se per esempio essa venisse costruita a scopi agricoli, per la coltivazione della sterminata landa fino allora sterile e disabitata? O semplicemente se i lavori si fossero fermati dopo 1 o 2 chilometri? Domandava Drogo. Simeoni scuoteva il capo. Il deserto era troppo pietroso per poter essere coltivato, rispondeva. Ma era poi detto che gli stranieri facessero veramente una strada. Simeoni garantiva che in certe giornate limpide, verso il tramonto, quando le ombre si allungavano grandemente, era riuscito a distinguere la striscia rettilinea della massicciata. Drogo però non l'aveva vista, per quanto si fosse sforzato. Chi poteva giurare che quella striscia diritta non fosse una semplice piega del terreno? Il movimento dei misteriosi punti neri e il lume acceso di notte non erano affatto probanti. Forse c'erano sempre stati, e negli anni precedenti forse nessuno li aveva visti perché coperti dalle nebbie, senza contare la insufficienza dei vecchi cannocchiali usati fino allora dalla fortezza. Mentre Drogo e Simeoni stavano così discutendo, un giorno cominciò a nevicare. «Non è ancora finita l'estate», fu il primo pensiero di Giovanni, «ed ecco già arrivata la brutta stagione». Gli pareva infatti di essere appena tornato dalla città, di non aver avuto neanche il tempo di sistemarsi come prima. Eppure sul calendario c'era scritto 25 novembre. Interi mesi si erano consumati. Fittissima la neve scendeva dal cielo, depositandosi sulle terrazze e facendole bianche. Guardandola, Drogo sentì più acuta la solita ansia. Invano cercava di scacciarla, pensando alla propria giovane età, ai moltissimi anni che gli rimanevano. Il tempo, inesplicabilmente, si era messo a correre sempre più veloce, inghiottiva uno sull'altro i giorni. Bastava guardarsi attorno, che già scendeva la notte. Il sole girava di sotto e ricompariva dall'altra parte, a illuminare il mondo, pieno di neve. Sulla pianura settentrionale, ai limiti delle nebbie perenni, non si vedeva più nulla di sospetto. Anche il lume notturno era spento e Simeoni ne era soddisfattissimo. Questo dimostrava che lui aveva ragione. Non si trattava né di un villaggio né di un campo di zingari, ma soltanto di lavori che la neve aveva interrotti. Già da parecchi giorni l'inverno era sceso sulla fortezza, quando, sull'ordine del giorno, affisso nella sua cornicetta, su un muro del cortile, si lesse una strana comunicazione. «Deplorevoli allarmi e false voci», era scritto. «In base a precisa disposizione del comando superiore, invito sottufficiali, graduati e soldati a non dar credito, ripetere o comunque diffondere voci d'allarme, destituite di qualsiasi fondamento, circa presunte minacce di aggressione contro i nostri confini. Queste voci, oltre che inopportune per ovvi motivi disciplinari, possono turbare i normali rapporti di buon vicinato con lo Stato confinante e diffondere fra la truppa inutile nervosismo, nocivo all'andamento del servizio. Desidero che la vigilanza da parte delle sentinelle sia esplicata con i mezzi normali e che soprattutto non si ricorra a strumenti ottici non contemplati dai regolamenti e che spesso, usati senza discernimento, danno facilmente occasione a errori e false interpretazioni. Chiunque sia in possesso di tali strumenti dovrà notificarlo al rispettivo comando di reparto, il quale provvederà a ritirare gli strumenti stessi e a tenerli in custodia. Seguivano le normali disposizioni per il turno quotidiano di guardia e la firma del comandante, tenente colonnello Nicolosi. Era evidente che l'ordine del giorno formalmente diretto alla truppa si rivolgeva in realtà agli ufficiali. Nicolosi aveva ottenuto così il doppio scopo di non mortificare nessuno e di mettere al corrente l'intera fortezza. Certo, nessuno degli ufficiali avrebbe più osato farsi vedere dalle sentinelle a perlustrare il deserto con cannocchiali extra regolamentari. Gli strumenti in dotazione per le varie ridotte erano vecchi, praticamente inutilizzabili, qualcuno anzi era andato perduto. Chi aveva fatto la spia? Chi aveva avvertito il comando superiore giù in città? Tutti pensarono istintivamente a Matti. Lui solo poteva essere stato, sempre con il regolamento alla mano per soffocare ogni cosa piacevole, ogni tentativo di personale respiro. Nella maggioranza gli ufficiali ci risero sopra. Il superiore comando, dicevano, non si smentiva, arrivando con 2 anni di ritardo. Chi infatti pensava a invasioni dal nord? Ah sì, Drogo e Simeoni se n'erano proprio dimenticati. Pure sembrava incredibile che l'ordine del giorno fosse stato fatto apposta per quei due. Un buon ragazzo come Drogo, pensavano, non poteva certo minacciare alcuno, anche se fosse stato tutto il santo giorno con un cannocchiale in mano. E anche Simeoni veniva giudicato innocuo. Giovanni ebbe invece l'istintiva certezza che l'ordine del tenente colonnello lo riguardasse personalmente. Ancora una volta le cose della vita si combinavano esattamente contro di lui. E che male c'era se lui restava qualche ora a osservare il deserto? Perché impedirgli questa consolazione? A pensarci gli cresceva una rabbia profonda. Lui si era già preparato ad aspettare la primavera. Appena sciolta la neve, sperava, sarebbe ricomparso all'estremo nord il misterioso lume. I puntini neri avrebbero ricominciato a muoversi su e giù. La fiducia sarebbe rinata. Tutta la sua vita sentimentale era infatti concentrata in quella speranza, e stavolta con lui non c'era che Simeoni. Gli altri non ci pensavano nemmeno, neppure Ortiz, neppure il caposarto Prosdocimo. Era bello adesso, così soli, nutrire gelosamente un segreto, non come nei giorni lontani, prima che morisse Angustina, quando tutti si guardavano come congiurati, con una specie di avida concorrenza. Ma adesso il cannocchiale era stato proibito. Simeoni, scrupoloso com'era, non si sarebbe certo più fidato di adoperarlo. Anche se il lume si riaccenderà al limite delle nebbie perenni, anche se riprenderà il viavai delle minuscole macchie, loro non potranno più saperlo. Nessuno a occhio nudo se ne accorgerebbe, neanche le migliori sentinelle, cacciatori famosi che vedono un corvo a più di 1 chilometro. Era ansioso Drogo quel giorno di sentire il parere di Simeoni, ma aspettò fino a sera per non dare nell'occhio. Qualcuno certo sarebbe andato a riferirlo immediatamente. Lo stesso Simeoni, del resto, non era venuto per mezzogiorno alla mensa e Giovanni non l'aveva visto da nessun'altra parte. pranzo Simeoni comparve, ma più tardi del solito, quando Drogo aveva già cominciato. Mangiò prestissimo, si alzò prima di Giovanni e corse subito a un tavolo di gioco. Aveva forse paura di trovarsi da solo con Drogo? Nessuno dei due quella sera era di servizio. Giovanni si sedette su una poltrona di fianco alla porta delle sale per abbordare il compagno all'uscita e notò come Simeoni, durante il gioco, lo adocchiasse di sfuggita, cercando di non farsi vedere. Simeoni giocò fino a tardi, molto più tardi del solito, come non aveva mai fatto. Continuava a gettare occhiate verso la porta, sperava che Drogo si fosse stancato di aspettare. Alla fine, quando tutti se ne andarono, dovette anche lui alzarsi e dirigersi verso l'uscita. Drogo gli si mise al fianco. «Ciao, Drogo», disse Simeoni con un sorriso imbarazzato. «Non ti avevo visto. Dov'eri?» Si erano avviati per uno dei tanti squallidi corridoi che attraversavano in longitudine il corpo della fortezza. «Mi ero seduto a leggere», disse Drogo. «Non mi ero neanche accorto di aver fatto così tardi». Camminarono un poco in silenzio, tra i riflessi delle rade lanterne attaccate simmetricamente ai due muri. Il gruppo degli altri ufficiali si era già allontanato. Si udivano le loro voci confuse provenire dalla lontana penombra. Era notte alta e faceva freddo. «Hai letto l'ordine del giorno?» fece Drogo a un tratto. «Hai visto quella storia dei falsi allarmi? Chissà perché. E chi sarà stato a fare la spia?» «E come faccio a saperlo io?» rispose quasi sgarbato Simeoni, fermandosi all'imbocco di una scala che conduceva di sopra. «Tu vieni su da questa parte». «E il cannocchiale?» insistette Drogo. «Non si potrà più adoperarlo il tuo cannocchiale, almeno l'ho già consegnato al comando», interruppe Simeoni, sostenuto. «Mi pareva meglio, tanto più che ci tenevano d'occhio». «Potevi aspettare, mi sembra. Magari fra 3 mesi, quando la neve sarà andata, nessuno ci penserà più. Si poteva tornare a guardare. La strada che tu dici, come si farà a vederla senza il tuo cannocchiale?» «Ah, la strada!» E c'era nella voce di Simeoni una specie di compatimento. «Ma ho finito per convincermi che tu avevi ragione». «Che io avevo ragione? Come? Che non fanno nessuna strada. Deve esserci proprio qualche villaggio o un accampamento di zingari, come dicevi tu». Aveva dunque tanta paura Simeoni da rinnegare tutto quanto. Per paura di una grana non si fidava a parlare neppure con lui, con Drogo. Giovanni guardò in faccia il compagno. Il corridoio era rimasto completamente deserto, non si udiva più alcuna voce. Le ombre dei due ufficiali si proiettavano mostruose da una parte e dall'altra, ondeggiando. «Non ci credi più, dici?» domandò Drogo. «Pensi sul serio di esserti sbagliato? E allora? Tutti i calcoli che facevi? Tanto per passare il tempo», fece Simeoni, tentando di voltare tutto in scherzo. «Non l'avrei mica presa sul serio, spero». «È che hai paura. Di la verità», gli fece Drogo con voce cattiva. «È stato l'ordine del giorno, di la verità, e adesso non ti fidi. Non so che cosa tu abbia stasera», rispose Simeoni. «Non so che cosa tu voglia dire. Con te non si può più scherzare, ecco cos'è. Prendi tutto sul serio. Sembri un bambino, sembri». Drogo tacque e lo stette a guardare. Rimasero qualche istante muti nel lugubre corridoio, ma il silenzio era troppo grande. «Beh, io vado a dormire», concluse Simeoni. «Buonanotte». E si avviò su per la scala, anch'essa illuminata ad ogni pianerottolo da una magra lanterna. Simeoni salì la prima rampa, scomparve dietro l'angolo e si vide soltanto la sua ombra sul muro. Poi neanche questa. «Che verme!» pensò Drogo. Thank you.